Salve a tutti, bentornati sull'Arcadia, grazie a Radio Big World. Oggi voglio parlare di qualcosa di diverso, perché se qualcuno crede che la Terra piatta sia una cosa da pazzi, pensiamo a chi crede agli alieni, che sono nello spazio e che ci osservano continuamente. Possiamo andare a vedere canali sia su YouTube e anche in televisione, quanti programmi fanno che parlano degli alieni, di cose misteriose e vi fanno vedere cose in computer grafica o che ne so, un moscerino che si muove davanti a un telescopio con la telecamera e vi fanno credere che sia chissà quale cosa che vola nel cielo, misteriosa, non identificata. Non lo so, io anche se credevo nel globo, ma ho sempre avuto i miei dubbi sull'alieni. Il fatto è che uno dice, se siamo così tanti pianeti, così tante stelle, così tante nell'universo, dici perché ci dobbiamo essere solo noi? Il fatto è che se non ci sono tutti questi pianeti e non ci sono tutti questi soli, ma c'è un sole solo che ci gira intorno ed è dentro, non ci sono altri esseri viventi, non ci sono esserini grigi che arrivano dal profondo spazio infinito a guardarci e a girellare sulla Terra. E che fanno? Fanno le gite? Visite guidate? No. Però ci sono milioni, miliardi di persone convinti di queste cose. Diciamo, anche il più scarso canale di YouTube ha milioni e milioni di visualizzazioni, di iscritti. Perché? Cosa fanno vedere? Le immagini? Ah, sì, già, fanno vedere le immagini della NASA che sono registrate nelle piscine. L'acqua sappiamo che ha delle. Non è perfettamente, perfettamente limpida, limpida, ma se c'è anche qualche impurità si vede, soprattutto da vicino con i fari e tutto il resto. Quindi poi magari qualcosa viene tralasciato nel montaggio e si vede un piccolo, magari granello di polvere che sembra un'astronave spaziale nello spazio. Dietro magari un astronauta o magari sulla Terra, ma no. Secondo me non ha senso. E abbiamo anche tutti questi scienziati come sempre Neil deGrasse Tyson che vanno in programmi televisivi a fare propaganda su questa cosa perché magari qualcuno, perché hanno tirato fuori magari una foto di un qualcosa di strano che si vede nello spazio, in queste immagini. Ah, il governo ci nasconde gli alieni. No, no, il governo non vi nasconde gli alieni, il governo vi nasconde la vera forma della Terra, vi nasconde perché siamo qui e vi controlla, cercando di darvi il contentino ogni tanto, distraendovi con attacchi terroristici, alieni e fenomeni inspiegabili causati proprio dalle stesse persone che dovrebbero dirvi la verità, invece vi mentono, vi tengono nascoste delle cose importanti, o almeno per alcuni sono importanti, come la forma della Terra. Perché è importante, così importante la forma della Terra? Perché nasconde il significato della vita, nasconde le nostre origini. E le origini non sono importanti? Insomma, pensiamo, tornando ai pazzi, a quello in cui uno crede, diciamo stanno spingendo verso la malattia mentale o comunque problemi psicologici riguardo i terapeutisti. Però pensiamo un attimo, è più matto uno che crede nell'amore e che cerca di fare la cosa giusta, la cosa buona, di aiutare gli altri, che cerca la verità, o uno che dice vado a difendere il mio paese, quindi va a casa di altri in un'altra terra, in un altro paese, con altre origini, con un'altra storia, armato, e uccide in nome della propria terra, del proprio governo. E questo non è fanatismo, malattia mentale, andare a uccidere altre persone in nome di chi? Ah, in nome della libertà, della giustizia. Sì, ma non ti hanno fatto niente. Perché c'è uno che ti dice questi sono pericolosi, vanno fermati. Allora ti prendi, ti armi e vai a rischiare la vita per quello che ti ha detto una persona. Questo non è controllo mentale, questo non è essere controllati. Guardate quanti americani, di solito i soldati sono quelli più, i militari sono i più fanatici. È difficile trovare un militare non, diciamo, non fanatico, non super orgoglioso di se stesso, che eleva se stesso più di tutti gli altri, perché lui serve il paese, serve. Sei un coglione, sinceramente sei un coglione, perché tu dai retta, questo è un parere mio, potete non essere d'accordo, però te tu fai quello che ti viene ordinato di fare, non sei libero, sei un burattino, sei una marionetta, sei un soldatino di plastica. E per quale motivo devi andare a uccidere le persone? Per quale motivo devi portare la guerra in altri paesi già disagiati, perché sfruttati dai potenti, e quegli stessi potenti ti mettono uno contro quell'altro e ti mandano a morire in una guerra inutile? Almeno così è come la vedo io. Quindi sono tutti amici politici, quando si parla di Polo Sud o altre cose, sono tutti amici, o di spazio, sono tutti amici, si vogliono tutti bene, tutti, non ci sono, no, il bene della scienza. Però poi quando si arriva alle cose della vita di tutti i giorni, sono, ti fanno vedere, sono uno contro quell'altro, si odiano a morte, si spiano, si mandano le spie, cercano di ammazzarsi. Ma per favore, sono burattini e sono tutti d'accordo. Sono tutti d'accordo. Non c'è Trump mega arrabbiato con Putin, Putin mega arrabbiato con Trump, e poi c'è la Merkel, e poi c'è. È tutta una messa in scena, è un grande teatro di bugie. E da quando siamo nati c'è questo teatro che va avanti. Quando sei piccolo ti viene detto Babbo Natale è così, così, così, te tu ci credi perché ti viene detto da persone di cui ti fidi, poi scopri che non è vero. La stessa cosa è per i politici, i governi. Te tu cresci con l'idea che ti difendono, che ti proteggano, che fanno il meglio per te, che si impegnano per te per migliorare le cose, quando invece ti prendono in giro dalla mattina alla sera, ti nascondono la verità, ti nascondono le cose, ti creano caos. Quante persone soffrono per colpa dei governi? Quante persone sono morte? Quindi io vengo chiamato spesso su internet pazzo, malato di mente, di fuori, rincoglionito, tutte le offese possibili. È inutile, potete dire che la religione, tu sei partito di capo, ora tu ti sei dato a questa cosa, religione, non c'entra la religione. Ma anche quelli pensate essere atei sia, è una religione anche quella. Ah, io sono ateo, no, non sei ateo, te credi alla palla rotante nello spazio infinito che viaggia a milioni di chilometri, gira a milioni di chilometri. E non te ne rendi conto, non lo puoi notare, non si può misurare, non si può osservare. L'unica cosa che si osserva è il cielo che gira, che rotea su di noi. È l'unica cosa che possiamo osservare. Perché tutto il resto che osserviamo non si può controbattere. Che non ha niente a che fare con la palla rotante. La palla rotante non esiste. Pensate a Martin Luther King. Ora io non mi voglio paragonare certo a lui, però, o a Bob Marley, nel senso, però no, se si fossero fermati perché c'era un gruppo di persone che dicevano che erano degli idioti, dove saremmo ora? Ci sarebbero ancora le panchine per i bianchi? O i negozi dove non possono entrare quelli di colore? Perché? Chi l'ha deciso? C'è qualcuno che ha deciso in quel modo e la gente a bacchetta come pecore dice hanno detto così, bisogna fare così, no? Senza ragionare con la propria testa. Ragionare con la propria testa su tutto, bisogna ragionare con la propria testa. La politica, il governo, la forma della terra, la scienza, la medicina, su tutto bisogna ragionare con la nostra testa. Nel momento in cui non ragioniamo più con la nostra testa, ma seguiamo ciecamente un qualcuno che blatera a caso, è religione, è una religione anche quella. Che prove ci sono? Ma te non sai, mi è stato detto da tanti, ma te non sai la matematica, non sai la fisica, cosa chiacchieri? Sì, va bene, magari sono un po' ignorante su questi argomenti, però di certo non sono dei numeri su un foglio che mi danno la prova della sfericità della Terra o dell'esistenza di milioni di pianeti, miliardi di pianeti, no? Che c'è qualcuno che ha tirato fuori dei numeri e ti dici vedi? C'è questi numeri. Sì, ma quei numeri, falli tornare nella realtà. Dimostrami che quei numeri rappresentano la realtà che viviamo e vediamo tutti i giorni, come la curvatura. Quindi se qualcuno è ancora scettico, fategli misurare la curvatura. Se non l'avete fatto voi stessi, fatelo. E se c'è qualcuno che vi critica o non dice ma i numeri, tira fuori fisica quantistica e numeroni, fategli dimostrare la curvatura, fategli, andate a cercare la distanza, guardate i video dei palloni amatoriali, la curvatura, bella curvatura, si vede, si può vedere da terra la nave che va oltre la curvatura, però se guardo un pallone, il video di un pallone amatoriale, no, non c'è nessuna curvatura, non noto nessuna curvatura, eppure sono a chilometri di altezza, sono a un metro di altezza, no? Se la posso notare da terra, la devo poter notare da un pallone. Poi questa cosa degli aerei, ma ho visto la curvatura dell'aereo, no, il finestrino dell'aereo è fatto in un certo modo, distorce quello che vedi. Anche il finestrino di una macchina lo fa. Quindi figuriamoci quello di un aereo. Lo blò. E quindi vi saluto qui. grazie per essere stati a me, grazie a Radio Big World e alla prossima. Ciao.